E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il gastronauta di Davide Paolini. Tempo di vendemmia, cari radioascoltatori, buona giornata a tutti. Ebbene, diciamo che è il momento clou anche per il vino, quello che sarà il vino 2013. E allora noi vogliamo un po' capire quando si dice quest'annata sarà buona, sarà ottima o addirittura sarà l'annata del secolo, anche perché negli ultimi 30 anni o anche negli ultimi 40 anni non so quante volte ho sentito dire è l'annata del secolo. Ma si può giudicare già un'annata ad oggi, mentre siamo in vendemmia? E come sarà il 2013? E allora cominciamo questo giro con alcuni nostri ospiti importanti. Cominciamo con un enologo, Riccardo Cottarella, il quale, diciamo, si occupa di aziende in diverse parti d'Italia. E con lui voglio proprio capire questo. Quando si dice è un'ottima annata, si dice per le 20 regioni italiane oppure si va da regione in regione per dire è un'ottima annata? Buongiorno Riccardo. Ciao Davide, ciao. No, hai detto benissimo, intanto usare il verbo presente non è azzardato, è aprofessionale, no? Come hai detto bene tu prima, troppe volte la vendemmia del secolo. Teniamo presente che la qualità dell'uva si fa nei prossimi 30 giorni, la vera qualità, anche perché il 70% della qualità almeno è ancora in pianta e sta maturando, cioè sta acquisendo o meno le caratteristiche della qualità o della non qualità. Quindi c'è da augurarsi, l'elemento è incondizionabile e assolutamente non gestibile, è il clima, tutto dipende dal clima. Oggi possiamo dire sino ad oggi. Quindi diciamo che il vino è un progredire giorno per giorno e le previsioni sono molto difficili. Sono difficili, sai, basta un temporale, lasciamo stare eventi straordinari, la grandine, il Dio libri, ma insomma basta un perdurare delle piogge piuttosto che piogge violente come intensità. Cioè questo è il momento cruciale, cioè le piogge fino a giugno sono state praticamente quasi ininfluenti, sono state influenti per coloro che non sono stati attenti a gestire la vigna in maniera scientifica e quindi sono state aggredite dalle malattie, peronospero, ovidio, insetti. Ma per chi è stato così avvenuto, così bravo da condurre in maniera sanitaria la pianta e la produzione, ad oggi, può aspettarsi una buona vendemmia laddove il clima si mantenga ancora adatto per la produzione di qualità. Ma insomma, siamo nelle previsioni, nelle speranze, nei sogni ancora. Volevo ricordare ai radioascoltatori che volessero intervenire, numero verde 800 24 00 24, e abbiamo già un radioascoltatore, Sauro, dalla provincia di Treviso. Buongiorno Sauro. Buongiorno a voi. Prego. Niente, volevo chiedere, intanto le sue trasmissioni sono sempre curiose e interessanti, ma mi veniva da chiedere, proprio perché il vino ormai è un aspetto che si lega a doppio filo alla nostra cultura, ecco, se questa nostra cultura, se e quando andrà ad infrangersi contro, diciamo, la marea di bevande gasate, piuttosto che una cultura dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che mi sembra più orientata verso dei middel di bevande rispetto al vino, che è squisitamente un prodotto bene, molto particolare. Grazie, ecco. Sauro, anche se, come si dice, è fuori tema, io faccio rispondere volentieri quando si parla di cultura da una persona che abbiamo proprio in linea, Franco Maria Ricci, che è direttore di Bibende, presidente di Sommelier del Mondo. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi ragazzi. Sì, ha detto bene il nostro ascoltatore. Se un paese come l'Italia ha nella scuola alberghiera italiana nemmeno un'ora di programma di vino, e in Francia il vino si studia a scuola, è molto difficile arrivare alla cultura imperante della qualità del vino nel nostro paese. Molto, molto difficile. Beh, volevo tornare a Cottarella. Volevo chiedere questo, bene. Riccardo. Diciamo che però quando si dice un'ottima annata non si sa, ad esempio, per vini riserva di 4-5 anni come saranno poi in bottiglia. Intanto approfitto per salutare l'amico Franco. Per quanto riguarda la tua domanda, Davide, ritorno un po' al concetto di prima. Cioè il vino è talmente complesso, l'uva è talmente complessa e quindi i suoi derivati, il vino è talmente a volte impenetrabile nel capirlo e nel giudicarlo e nel prevedere la sua evoluzione, che bisogna aspettare. Cioè possiamo dire ad oggi ci sono le prospettive, le prerogative, le caratteristiche perché possa avere questa evoluzione, speriamo che l'abbia, perché il vino, al di là di qualche sprovveduto, è un elemento comunque vivo, e dove c'è vita c'è irrazionalità, e dove c'è irrazionalità la possiamo prevedere, ma non possiamo giurare che sia quella la sua fine. Quindi la grande annata, io se tu fai una trasmissione tra un 30 giorni, ti giuro che ti dirò per filo e per segno, almeno per queste sono le mie conoscenze, come è l'annata e non come spero che sia. Bene, grazie a Riccardo Cottarella. Franco Maria Ricci, ma ti ricordi un'annata del secolo, Franco? Sì, certamente. No, io posso anche dire questo, no? Per esempio, come messaggio, sì, è vero, non possiamo dire oggi che è un'ottima annata, no? C'è un film, un'ottima annata. Però non, io credo, ricordiamo il 2002 e il 2003. 2002 l'anno della pioggia, 2003 l'anno della siccità. Beh, io sto vedendo oggi, noi abbiamo ascoltato 20.000 vini questi ultimi giorni, siamo appena finito per la guida che nascerà poche settimane, 2014. Bene, noi abbiamo trovato delle meraviglie in queste due annate fantastiche, 2002-2003. Oggi possiamo dire che anche quelle annate così strane, così balorde per certi aspetti, erano invece, si sono riversati vini eccezionali. Quindi diciamo che il vino poi dopo, sia nelle mani dell'uomo, sia col Padre Eterno che ci mette la sua, poi diventa la vita che cambia, come cambia in un uomo, può nascere in un certo modo, in un certo ambiente, e poi diventare un grande uomo e un grande vino. On parle de toi, on parle souvent, et tant de fois jusqu'à présent, sans réfléchir, sans faire d'esprit, d'un avenir cher à ce prix. Mais mon parler est bien trop franc devant tes excuses à de franc. Je pense encore. Ecco appunto il tempo è importante. Ma sentiamo Daniela dalla provincia di La Spezia, una radioascoltatrice. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Volevo fare una domanda riguardo quello che aveva detto il signor Cottarella. Diceva che la qualità del vino si determina negli ultimi 30 giorni, per cui in questo periodo è molto importante dell'anno. Però fino a giugno abbiamo avuto grandi precipitazioni di acqua sia sul nord che sul centro nord, e ovviamente per contrastare quello che è stato la muffa, la peronospora, l'ipidio, le aziende sicuramente avranno fatto più trattamenti alle piante. Volevo sapere se questo può influire sulla qualità finale del vino alla fine. Guardi, le faccio rispondere da un produttore che su questo sicuramente ha la risposta giusta, ma prima di passargli la parola ricordo numero verde 800 24 00 24. Buongiorno Francesco Valentini dell'azienda Valentini di Loreto, sì. Prutino. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide. Hai sentito questa radioascoltatrice? Sì, l'ho sentita molto lontana la domanda. Non sentivo bene. Ha detto, ha detto che come influiranno appunto su questa annata i grandi trattamenti che sono stati fatti visto le grandi piogge. Ma come influiscono? Allora, l'importante è aver fatto le cose bene senza che possano aver stravolto la materia prima, diciamo. Ma non è tanto quello che può interferire e condizionare, diciamo, è quanto l'andamento meteorologico. Mi sembra aver capito che la signora diceva che l'annata è stata particolarmente fredda e piovosa. Quindi sì, i trattamenti che vengono effettuati sono dei trattamenti che servono per contenere i danni che derivano da queste annate anomale, perché le annate ormai sono tutte annate anomale. Io mi capita sempre e spesso di sentire tutti gli anni, come capiterà anche a te, a voi, tutti quanti, di sentire delle dichiarazioni che anche da ormai da un mese, diciamo, che vanno in giro, che l'annata è eccezionale. L'annata del secolo, la migliore annata di sempre, questa è la solita canzone che da anni si sente tutti gli anni, diciamo. E non credo, non ritengo che la cosa sia molto seria, perché è imprevedibile. Noi operiamo con la materia vivente e quindi come tale è in continua evoluzione e trasformazione. È un pochino come se un medico vede una donna incinta e dice che bel bambino, dagli occhi azzurri, dei riccioli biondi. Oltretutto noi siamo fuori, siamo quindi a contatto con madre natura, con l'imprevedibilità del tempo, quindi può accadere di tutto. In effetti questa è stata un'annata, un'ulteriore annata anomala. Noi abbiamo avuto molte piogge, perlomeno nella nostra zona, è freddo, e questo ha determinato un arresto delle maturazioni, nella fase giugno-luglio, poi si è passati a un caldo abbastanza torrido, 37-38 gradi ad agosto, e anche lì c'è stato un arresto, perché l'arresto avviene sia per il freddo che per l'eccesso di caldo. Poi dopo questo caldo freddo ha determinato ovviamente molta umidità, quindi le varie problematiche legate a alcune fitopatologie come possono essere Peronospora o Idio. E lì bisogna intervenire, ovviamente poi ognuno interviene come meglio crede. Noi usiamo solo prodotti di contatto tradizionali, cioè rame e zolfo, non vogliamo stravolgere cioè la materia prima. Poi per come sarà adesso è tutto da vedere, bene, dipende dal tempo, è materialmente impossibile prevedere. Rimani, no? Con noi, Francesco, perché io vado da un altro Francesco, vado da Francesco Tanzi. Francesco Tanzi, che è esperto appunto della casa di aste Pandolfini di Firenze, esperto appunto in grandi annate. Volevo chiedere, Tanzi, sulle aste, è determinante l'annata, è quello che viene così giudicato dell'annata, 2, 3, 4, 5 stelle. Immagino che sia questo che poi incide molto sul prezzo finale di un'asta. Buongiorno. Sì, è molto importante l'annata, ma molto importante nel circuito delle aste anche l'etichetta della bottiglia. Nel circuito delle aste internazionali vengono richieste 5, 6, 10 etichette più importanti italiane e le 10, 15 etichette più importanti francesi, indipendentemente dall'annata. Sicuramente l'annata influisce molto sull'investimento, quindi sulle persone che vogliono acquistare il vino per business e quindi per poter poi incrementare i loro investimenti. Senta, Tanzi, voi da tanti anni fate aste. Si ricorda un'annata in particolare degli ultimi 30-40 anni che è quella un po', diciamo, che è stato un po' il fulcro anche dell'interesse di chi comprava, basandoci ad esempio sui vini rossi? Parlando d'Italia, in Italia l'annata più importante possiamo dire l'85 è stata un'annata molto importante, infatti Sassicaia nell'annata, certo, 85 mantiene ancora oggi delle cifre rilevanti, infatti una bottiglia gira circa sui 1000 euro. E poi annate 88, 82, 90, negli ultimi anni possiamo segnare il 2001, il 2004, il 2001 Masseto, ancora nel circuito delle aste, una bottiglia che si aggira circa sui 700 euro, invece se si va in Francia, l'annata del secolo, che viene chiamata così, al 2005. Ecco, quindi c'è un'annata del secolo? Sì, nel mondo dell'investimento del 2005 in Borgogna è l'annata del secolo, ci sono dei prodotti importanti, Romane Conti, 2005 la bottiglia gira ancora sui 10.000 euro. Bene, grazie Tanzi, la ringrazio. Sentiamo Alessio dalla provincia di Milano, radioascoltatore. Buongiorno Alessio. Sì, buongiorno. Sono un piccolissimo produttore, quindi parlo con passione, sono molto appassionato all'argomento, però vi hai ragione. Io volevo dire questo, annate si costruiscono in vigna, quindi ci possono essere delle condizioni meteorologiche, stagionali, che favoriscono determinati vitigni più di altri, e viceversa, quindi ci sono dei vitigni che magari in annate che sono state particolarmente difficili non arrivano, diciamo, a produrre quella qualità del vino che ci si potrebbe aspettare. Quindi le annate andrebbero meglio precisate dal punto di vista del vitigno, delle condizioni, certo, meteorologiche locali e anche della geografia, perché un'annata buona da noi non può essere la stessa in Borgogna. Sono d'accordo con lei, solo che ogni anno vengono annunciate, questa è stata un'annata ottima, io non ho mai sentito un'annata pessima annunciata così sui giornali, purtroppo. Ma guarda, abbiamo con noi Giacomo Moioli, che è un docente al Politecnico di Milano, nonché giornalista e grande degustatore. Giacomo, voglio chiederti, ma secondo te non è scorretto, perché la gente crede, quando si dice l'annata è ottima, che poi quel vino in bottiglia, quando si ripresenterà, sarà un grande vino. Non è meglio distinguere, cioè dire che la vendemmia poi può cambiare un vino in bottiglia? Ma sai, Davide, questo discorso della vendemmia e delle annate è un po' come quando si tirano le somme dei risultati elettorali. Nessuno perde mai, tutti hanno vinto, oppure se qualcuno ha perso milioni di voti non è sicuramente stata colpa sua. Io credo che da questa annata 2013, ed è importante sottolineare che la valutazione non può essere unitaria, esiste una biodiversità della vendemmia. Ogni territorio, ogni luogo, ogni situazione, ogni specifico vitigno ha una sua caratteristica. Dicevo, noi dovremmo prendere occasione da questo 2013 una volta per tutte per ragionare sul futuro delle vendemmie. E allora in questi anni noi abbiamo dovuto fare ragionamenti derivati dai cambiamenti climatici. Quest'anno è andato tutto bene, meno caldo, forti escursioni termiche. Diciamo che siamo di nuovo come ai vecchi tempi, ma è molto probabile che le situazioni future cambieranno. E allora io credo che per il mondo della produzione, per i produttori, per gli appassionati, per i professionisti, la grande sfida sia come ragioneremo nel futuro per prevenire i limiti del, ricordiamoci che il cielo è il tetto del vigneto, e quindi dovremo saper governare i cambiamenti climatici. Secondo elemento, la dico brevemente, è che cosa vogliono dire poi in termini economici queste grandi vendemmie. Quest'anno c'è stato un fenomeno, io non voglio buttarle in economia, ma ci sono state migliaia di persone che hanno chiesto di andare a fare la vendemmia, perché anche la crisi interagisce sul futuro, e io vorrei che nel futuro un comparto come quello enologico cominciasse ad essere pensato come un comparto fondamentale dell'economia del nostro paese. Vedi Davide, io credo che il vino, la vendemmia, la vigna sia un po' come i grandi amori. Se non li progettiamo, se non abbiamo una visione del futuro, continuiamo a parlarne in modo romantico, ma non prendiamo poi delle decisioni future. Bene, insomma, dobbiamo applicare alberoni anche al vino. Una domanda secca, Francesco Valentini, proprio ti do 30 secondi. Il tuo 2007 Trebbiano è stato giudicato l'anno scorso il miglior vino italiano. Tu questo 2007 avevi previsto durante la vendemmia che sarebbe diventato così straordinario? No, è stata un'annata difficilissima, un'annata estremamente anomala, perché c'è stata una siccità che faceva paura, non ha mai piovuto d'estate, mai piovuto in primavera, e praticamente abbiamo dovuto rimettere in atto le vecchie pratiche di aridocultura, lavorazione del terreno e via dicendo. Le premesse non erano assolutamente ottimali. Poi dopo madre natura è perfetta, soprattutto se si lavora artigianalmente, cioè nel rispetto della materia prima, tutto è imprevedibile. Ecco perché quindi un pochino mi riallaccio al discorso di prima, fare delle previsioni è impossibile. Ti faccio vedere come si fa. Per prima cosa alzi il bicchiere ed esamini il vino in controluce. Devi osservare colore, limpidezza e valutarlo, ok? Ok. Ah, denso, esile, fluido, viscoso, ok? Ok. Ora inclinalo. Così facendo controlli la densità del colore quando si dirada verso l'unghia. Questo ti suggerisce che età ha il vino e solitamente è più importante. Eccoci, densità di colore dall'annata del vino, dall'età del vino. Ebbene, continuiamo a parlarne con i nostri ospiti, e abbiamo con noi, diciamo, uno dei padri dell'enologia italiana. Buongiorno Giorgio Grai. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Tu che hai lunga esperienza di vendemmia, hai lunga esperienza anche sicuramente poi di vino prodotto, ma ti ricordi di annate particolari che promettevano veramente poco in vendemmia, poi diciamo che il vino è maturato in maniera splendida? Questo può succedere e succede anche spesso. Sì, io ricordo questo, la mia tenera età e molte vendemmie che io ho condotto nella stessa annata in tutte le parti d'Italia mi hanno dato molte esperienze. Rare volte però ho riscontrato un riscontro positivissimo su un'annata che era mediocre. Io oggi ho sentito tutto e di tutto, e con qualcuno posso essere d'accordo, ma quello che da molto tempo io sostengo è che il concetto di annata non può essere limitato all'ultimo mese, come ho sentito dire, perché io ho visto delle uve bellissime e nell'ultimo mese delle grandi annate ci hanno portato via tutto. Quindi il concetto di annata è un concetto di un rapporto che nessuno prende in considerazione, un rapporto tra superficie fogliare, apparato radicale e numero di grappoli, primo. Dopodiché c'è l'andamento climatico dalla fioritura alla maturazione, quindi la situazione fisiologica in cui la vite si trova considerando il primo rapporto che io ho detto prima, superficie fogliare, apparato radicale, numero di grappoli, e si sviluppa nel chimismo della maturazione in un prodotto uva finale che può essere determinata uva da grande annata se non si rovina il tutto. Bene. Poi in cantina e con la tecnologia. Quindi questo è straordinario. In effetti il concetto di grande annata lo troviamo in giro in paesi europei. Noi normalmente ci affidiamo a quello che la stampa dice. Io ho sempre letto di grandi annate e ho sempre poi riscontrato che ci potevano essere delle differenze. Bene, Giorgio, rimani con noi, rimani con noi. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, e abbiamo con noi Lamberto Frescobaldi. Bene, uno dei suoi uini è stato citatissimo, abbiamo sentito, da Francesco Tanzi delle Case d'Asta di Firenze, perché è uno dei più gettonati nelle aste. Allora gli chiedo, Lamberto Frescobaldi, Scobaldi, ma quali sono le previsioni per la prossima annata del Masseto? Terrà sempre questi prezzi alle aste oppure ci potrebbe essere qualche incrinatura, qualche annata ultima che non sarà come in passato? Allora, buongiorno. Ma questa è una bella domanda e che mi auguro che le incrinature non ci siano, anche perché poi l'annata del secolo, la migliore annata, è come è detto, come è stato detto nel corso della trasmissione, è un noioso ritornello. Grazie a Dio non siamo tutti uguali e ci piace delle cose anche diverse, ci piace delle sfumature diverse da annata a annata. Se consiglio a chi gli piace il vino di prendere uno stesso vino di diverse annate e insieme agli amici fare una degustazione, come si dice, verticale. E non è che tutti si metteranno d'accordo che gli piace tutti lo stesso prodotto. Per quanto riguarda Masseto e poi anche altri nostri vini, il frutto in questo vino qui è un insieme ovviamente dell'annata, del clima dell'annata, ma anche di tanto lavoro sulla vigna, quindi di ore manodopera a ettaro, come vengono calcolate, come diceva prima Grai, la quantità di uva a pianta, la grandezza dell'acino, la sanità dell'acino. Quindi ci sono vari fattori che incidono tutti poi sul risultato finale, ultimo, una bella vinificazione, una vinificazione fatta correttamente. In questi ultimi anni la qualità media delle annate si è alzata, specialmente guardando a quella fascia di prodotti di produttori che vogliono emergere e far vedere la qualità dei loro terreni, la qualità del loro lavoro, grazie proprio appunto a queste varie variabili che sono il tempo speso in vigna, la quantità di uva. Tanti produttori fanno quella che viene chiamata la vendemmia verde, no? La vendemmia verde cos'è? Quella vendemmia che nel corso del mese di agosto, che inizia dalla metà di agosto in avanti, si va in vigna e si butta per terra degli acini, dei grappoli che sono non posizionati nel posto ideale, oppure perché ce n'è uno o due in più. Quindi sono varie variabili. Comunque rimanga con noi, continueremo a parlare di questo, ma sentiamo un radioascoltatore, Marco dalla provincia di Arezzo. Buongiorno Marco. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. No, io volevo fare solamente due brevissimi interventi. Uno, concordo con Valentini, se non sbaglio, che dire che sarà una grande annata è impossibile. Il vino viene prodotto quest'anno, entrerà in commercio molto spesso tra un anno, se non due o tre, quindi come si fa a dire quello che sarà? Non lo so. Comunque, detto ciò, volevo intervenire anche sul discorso della signora che ha fatto, dice, un'annata come questa, particolarmente piovosa, molti trattamenti. No, non è vero. Io faccio biologico, produco vino qui a Cortona, produco vino biologico, ho fatto meno trattamenti dell'anno scorso, pur avendo avuto un'annata molto umida, semplicemente facendo degli interventi agronomici, manuali. Ho sfogliato di più intorno al grappolo, il grappolo è rimasto più esposto al sole, pioveva, prendeva comunque il prodotto, faccio rame e zolfo anche io, e quindi lo prende meglio, si asciuga prima e rimane più arieggiato e quindi è più difficile un attacco fungineo. Per la botrytis ho usato dei bacilli che attaccano i funghi della botrytis, quindi si interviene anche a livello biologico e non è detto che servano maggiori interventi. Grazie Marco di questa anche delucidazione tecnica. Bene, sentiamo Giorgio dalla provincia di Varese, un altro radioascoltatore. Sì, buongiorno, sono Giorgio. Certo. Una domanda a qualche esperto, sì, che avete lì in questo momento. Allora, io ho in cantina dei vini abbastanza datati, possono essere del 2002, 2001, 2005, rossi. Questi vini rossi posso tenerli sempre coricati o vanno tenuti in verticale o dipende dalla qualità dei vini rossi e come faccio a saperlo se... Beh, io non credo che ci possa fare distinzione tra vino rosso e vino rosso, di solito vengono tenuti coricati, ma c'è anche una scuola di pensiero che indica dritto, quindi credo che dipenda anche dalla sua cantina com'è, dalla temperatura e da tante altre cose. Grazie Giorgio, io torno un altro Giorgio, torno a Giorgio Grai. E Giorgio, ma una annata non eccezionale in vendemmia può anche diventare un'annata diciamo ottima poi col passare del tempo in bottiglia, oppure di fronte a un'annata veramente dalle caratteristiche diciamo le peggiori non c'è niente da fare? Ma di fronte alle peggiori c'è niente da fare, tutto sta nel stabilire che cos'è un'annata non eccezionale. Intanto non in tutte le regioni d'Italia e in Europa si verificano le stesse condizioni climatiche e ambientali. Sicuramente si può, operando con attenzione sulle pratiche culturali e verificando molto bene quel rapporto di cui ho parlato prima, si possono ottenere dei risultati accettabili. È certo che una cosa è molto importante che di solito nessuno tiene in considerazione, la scelta dell'ora di vendemmia, la scelta della data di vendemmia, alle volte alcuni giorni più, alcuni giorni meno, mi determinano delle variazioni di pH, di zuccheri, di acidità che mi possono poi intervenire negativamente o positivamente sullo sviluppo poi del vino che metto a fermentare, e anche lì devo porre grande attenzione a come conduco le fermentazioni e tenendo conto di tutto quello che è il background di produzione delle uve da vino, perché molto spesso si producono uve per stabilire poi se le mandiamo a fare succhi d'uva, aceti o come tira al mercato in funzione delle quotazioni. Bene. Vanno a destinare. Parliamo sempre di persone, di viticoltori che producono uve da vino. Bene, abbiamo con noi Arianna Occhipinti, che è una produttrice siciliana che rientra nei vini cosiddetti naturali. E a lei voglio chiedere, Arianna, di fronte a un'annata, diciamo a una vendemmia che non è splendida, diciamo chi segue la strada che hai intrapreso tu e molti altri produttori ormai, si può intervenire in maniera diciamo importante oppure è difficile intervenire? Buongiorno Davide, innanzitutto un'annata come questa, che è un'annata che si prospetta un po' difficile, un settembre un po' instabile in questo momento, ha piovuto, in Sicilia spesso c'è un grande acquazzone a fine agosto, però poi si stabilizza il tempo, però vediamo un attimino come va, perché finché l'uva non è dentro non ci possiamo pronunciare. Nel caso dovesse essere un'annata difficile, quindi con un andamento molto piovoso, sicuramente nel mio caso andrei a fare una grande selezione delle uve in vigneto. Io non, comunque non interverrei in nessun modo utilizzando nient'altro, per cui farei una grande selezione, rifaccio poi una selezione magari in vigna, in cantina, quando l'uva arriva in cantina, e cerchiamo insomma di gestire poi le fermentazioni nel miglior modo possibile. Bene, ti do atto di essere forse l'unica che ha detto che probabilmente potrebbe essere anche una vendemmia difficile, mentre abbiamo sentito ovunque dei peana a questo. Ma grazie della tua sincerità su questo. Bisogna anche essere, come dire, io finché l'uva non ho dentro, sì, certo, sto abbastanza calma. Ma poi spero che sia un settembre soleggiato. Certo. Sinora qualche pioggia c'è stata, è stata però leggera, ancora non ho fatto nessun danno. Bene, mi sembra veramente, questo è veramente corretto. Bene, sentiamo Emilio da Prato, radioascoltatore. Buongiorno Emilio. Buongiorno Davide. Prego. Allora, vi ascolto dal primo giorno. Bene, bene, bene. Su quattro radio. Si sarà anche stancato, si sarà anche stancato di ascoltarci. Sul pulsante numero uno, dal bene, primo giorno. Bene, bene. Andiamo al dunque, andiamo al dunque. Vado veloce. Per completezza di informazione, c'è anche un altro film francese, questa volta molto, sicuramente lei lo conosce, molto critico sui vini e su quel grande... Sì, Mondovino. Bravo, bravo. Ecco. Adesso le racconto di due esperienze di vino. Allora, primo risalendo nelle Langhe, anche questo sicuramente lei lo sa, per me è stata una bellissima sorpresa. Allora, le tenute di Fontana Fredda erano già di Farinetti, ma non sapevo che aveva acquistato anche Emilio, Borgogno. Emilio, andiamo al dunque, andiamo alla domanda, facciamo una domanda. No, la domanda era questo, un suggerimento che mi è stato per metà bruciato. Sì. Raccomandiamo a questi ragazzi di andare in vigna, perché se, purtroppo di questi tempi 7 euro l'ora sono soldi per loro. Bene. In Svizzera si prende molto di più. Bene, mi bene. Posso dire l'ultima cosa, in Valle d'Aosta una signora meravigliosa, Chardonnay, Semin, Petit Rouge e Terre e Emilio, grazie, se no divaghiamo troppo, grazie. Bene, la ringrazio del suo intervento, ma io voglio andare da Luca Gardini. Luca Gardini è un notissimo sommelier, è stato campione del mondo, ma a lui voglio chiedere, caro Luca, ma voi che siete quelli importanti, che la gente vi ascolta quando date i giudizi sui vini, poi tu fai anche una gradatoria dei 50 migliori vini e credo che uscirà fra poco una seconda gradatoria, ma non pensi che venga influito molto il vostro giudizio sulle annate, quindi sulle annate di certi produttori, dicendo che è meglio un'annata rispetto a un'altra? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Sì, il nostro giudizio, il nostro parere influisce. Il mio parere, penso, sull'annata in corso, su come valutiamo noi, commentiamo le annate. L'annata in corso è un'annata molto variabile, difficile, concordo con l'Ariano Chipinti, e anche se in alcune zone, parlavo con produttori l'altro giorno al telefono, tipo la parte del Monte Cucco, sta venendo un'annata molto molto buona, quasi eccellente. Poi sai, il giudizio sulle annate si sente sempre sparare da tutte le parti, grande annata, non annata piccola, grande annata, media annata. Io penso che ogni annata ha il suo discorso, va interpretata, va condivisa, va capita e poi va espressa. È ovvio, ci sono annate più grandi e annate più piccole, però ogni annata un grande produttore, se è bravo, riesce a interpretare nel meglio per il suo territorio, per il suo vino. Sì, comunque io sono convinto che molte volte, ad esempio, se escono dei giudizi molto positivi su alcuni vini di alcune annate, questo conta molto di più magari del valore che gli dà il produttore. Non so se Ariane è d'accordo su questo. Ma sì, sicuramente è importante interpretarla un'annata, perché poi spesso anche le annate più difficili possono uscire dei buonissimi vini a distanza di anni, che magari sono vini, è vero, come dice Luca, bisogna capirla, bisogna interpretarla, e penso che se si conosce bene il proprio luogo si riescono a trovare dei metodi per cercare di fare comunque un vino buono. Poi certo, la natura ci deve un pochettino supportare, un'annata difficile, però sono dell'idea che il vino ci dà delle sorprese poi negli anni incredibili. Annate reputate brutte in quel momento sono reputate poi dei grandi vini, per cui non magari in freschezza, in eleganza e non in grandi strutture, però un buon produttore riesce a fare comunque un buon vino anche con nata Abruzzo. Senti, ecco, bisogna dire che da ogni tanto escono molte tabelle, ci sono molte tabelle anche comparative tra le annate, diciamo, dei grandi vini, soprattutto dei grandi vini rossi, e si vede che c'è una disparità tra regione e regione, che non so, tra Barolo e Amarone, tra Brunello e Barbera, tra Chianti e Montepulciano d'Abruzzo. E Luca, ecco, io chiedo, come si pone un degustatore di fronte magari a giudizi importantissimi che vengono dati su queste annate, di fronte magari a una degustazione che non corrisponde assolutamente con quanto viene declamato magari dai consorzi, che ogni anno danno delle votazioni alle annate? Beh, sicuramente un bravo degustatore non si deve fare influire da nessuno, deve essere lui e il vino e il bicchiere, in quel caso quello che si ha davanti, e va giudicato proprio per quello che hai dentro, quindi cioè, non bisogna farsi influire che se i consorzi dicono altro 5 stelle, 3 stelle, bisogna valutare quello che realmente, per esempio il Brunello 2008, che tutta la critica mondiale americana l'ha ammassato, io l'ho salvato, perché nel 2008 è un'annata che va capita, secondo me c'è delle belle soddisfazioni anche fra qualche anno. Come ripeto, le annate vanno interpretate, è ovvio, è l'annata grande e l'annata piccola, ma ogni vino, ogni annata, ogni zona va interpretata per quello che sia davanti, e non si può banalizzare su tutti, un'annata media, scarsa, magari in alcune zone diventa grande. Per esempio nel 2002 in Valtellina è stata un'annata forse la migliore degli ultimi 70 anni, capito? E nel 2002 in Italia è stata un'annata scarsa, come tu sai. Bene, sentiamo Davide da Novara, radioascoltatore. Pronto, buongiorno. Prego, veloce perché siamo in fondo. Velocissimo, allora volevo dire che secondo me due o tre giorni di vendemmia prima o dopo non cambiano nulla, secondo me, perché comunque cioè, l'uva è stata tutto l'anno sulla vigna, no? Pensare che poi per due o tre giorni si verificano più acidità meno acidità è come dire che una farfalla sbatte ali in Giappone e c'è un uragano a New York. Beh sì, comunque se viene una grandine, insomma, credo che qualcosa possa cambiare. Se arriva la grandine, quello sicuramente sì, però non dei fattori. Poi sull'annata volevo solo aggiungere il termine che un amico che ha una cantina di Pregio nelle Langhe mi diceva così, che a parte i tantam che si sentono un'annata eccezionale, lui ha detto che l'annata non sarà buona. Vabbè, beh, ci sono giudizi molto soggettivi, l'abbiamo sentito da più parti, quindi sicuramente ognuno la può pensare come vuole. Bene, siamo arrivati, diciamo, in fondo a questo giro. Grazie a Arianno Chipinti, grazie a Luca Gardini, grazie a Anita Panizza e Isotta Scenna che hanno lavorato su questa puntata, e in regia Paolo Corleone. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, e sicuramente vediamo che il tempo rimanga e tutte le prerogative su questa annata ci siano, ma sicuramente ancora nessuno ha annunciato, diciamo, il giudizio sarà l'annata del secolo. Speriamo che venga usata sempre meno, ma che quando ci sarà, sarà veramente l'annata del secolo, allora tutti se ne potranno accorgere e non saranno solamente alcuni produttori che annunceranno, diciamo, questa grande risultato. Buon weekend a tutti da Davide Paolini.